Perfetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Mi piace molto andare al mare perché il mare è affascinante, è molto bello. Io sono originario di una città di mare, quindi le vacanze le ho fatte sempre prevalentemente in montagna, perché mi affascina pure molto la montagna. Mi piace molto passeggiare, vedere i torrenti alpini, vedere i laghi delle nostre montagne, vedere il panorama montano mi piace molto. Questi sono i gusti turistici, paesaggistici, diciamo, del presidente Mattarella intervistato oggi dai bambini. In questo caso era una bambina, che sono andati bambini delle scuole al Quirinale per parlare con il presidente e fargli le domande. Insomma, abbiamo scoperto che è nato al mare ma preferisce decisamente la montagna e paesaggi così un po' più in alto. Ma stasera parleremo di varie cose, come sempre, effetto notte naturalmente. Prima vi farò un riassunto della giornata per coloro che a milioni e milioni si aggiungono ogni sera, quindi non sanno come funziona magari il programma, per avere un quadro questo esaustivo della giornata, e poi man mano entriamo nel cuore degli argomenti con i vari ospiti. C'è sempre per voi la pagina Facebook di Effetto Notte, alla quale potete aderire senza indugio e sulla quale potete scrivere le vostre riflessioni, così come anche a questo durante la diretta al 349-238-6666, quindi durante la diretta sia pagina Facebook sia questo numero per i WhatsApp e per gli SMS, il 349-238-6666. Poi qualsiasi momento, giorno e notte, c'è per voi la pagina Facebook di Effetto Notte. La domanda che vi pongo questa sera, fra i vari argomenti che toccheremo, è relativa a Microsoft. Sapete che cosa ha fatto? Ha deciso di fare causa al governo statunitense per una questione di privacy, perché dice gli utenti devono conoscere quando si viola la loro privacy. Sapete tutto lo scandalo poi negli Stati Uniti dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza, di tutti quelli che erano stati spiati al telefono, attraverso le mail, tutti gli altri strumenti, insomma, attraverso i quali si comunica e con i quali si può essere intercettati in qualsiasi momento. Bene, che cosa ne pensate? Siete d'accordo con la decisione di Microsoft? E qual è per secondo voi l'equilibrio? Perché questa è la difficoltà, di trovare sempre un giusto equilibrio tra privacy e sicurezza, così anche come quando si parla di telecamere o di strumenti di questo tipo di controllo, insomma. 349-238-6666, pagina Facebook di Effetto Notte. Parleremo naturalmente anche lungamente dei funerali di Casaleggio, ma soprattutto di quello che segue alla morte del cofondatore del Movimento 5 Stelle. Anche su questo, se volete, potete scrivere i vostri pareri. I canali vostri privilegiati ve li ho ricordati, e voi ricordate anche a parenti, amici, amori, conoscenti sempre di sentire la sera Effetto Notte. Il referendum sulle trivelle, Renzi commenta: è una bufala dire che si vota sulle rinnovabili, astenersi è legittimo. I funerali di Casaleggio, il Movimento 5 Stelle in lutto al grido di onestà. Microsoft fa causa al governo americano. Gli utenti, dice la multinazionale, devono sapere se vengono spiate le loro mail. Al Piapuane frana un costone, due operai intrappolati sotto le rocce. Immigrazione, il Papa atteso a Lesbo, Radio 24 torna sulla rotta dei migranti, e intanto l'Austria prepara una barriera anche al confine con l'Ungheria. Povertà, secondo i dati Eurostat l'Italia è il paese europeo con più poveri, quasi 7 milioni, il doppio della Germania e tre volte la Francia. Canone Rai, dubbi del Consiglio di Stato sul pagamento in bolletta, va rivisto, dice. Per il cinema a Cannes, nessun film italiano in gara per la Palma d'Oro, e c'è Pericle Nero di Mordini selezionato per la sezione Un Certain Regard. Partiamo quindi dal referendum sulle trivelle, quello che si tiene questa domenica, la prossima domenica. A pochi giorni appunto dal referendum torna pesantemente sulla questione il presidente del Consiglio Renzi, lancia l'ultimo appello a non andare a votare, scrivendo sul suo organo di informazione i News, dice: una bufala la questione delle trivelle, non c'è nessun referendum sulle trivelle, scrive, solo la scelta se continuare a estrarre carbone e gas fino all'esaurimento dei giacimenti senza sprecare ciò che già stiamo utilizzando, oppure fermarsi a metà. E oggi a dare manforte a Renzi è anche intervenuto l'ex presidente Napolitano, anche lui sul concetto dell'astensione. Rimanendo sulla politica, oggi poi è stato il giorno del lutto, è stato il giorno dell'ultimo saluto questa mattina a Milano per Gian Roberto Casaleggio. Dopo il funerale, come chiesto dallo stesso Casaleggio, il figlio Davide, Di Maio, Di Battista e con loro la delegazione 5 Stelle lo hanno salutato con un brindisi. Mio padre aveva un sogno: cambiare in meglio questo paese. Chiunque ritenga di aver ricevuto qualcosa da lui, lo conservi. A parlare è Davide, il figlio di Gianroberto Casaleggio, davanti a una folla di centinaia di persone che ascolta in silenzio. Fuori, davanti alla chiesa di Santa Maria delle Grazie a Milano, altrettante persone restano ad attendere l'uscita del feretro per rendere l'ultimo saluto al fondatore del Movimento 5 Stelle. Esplode un coro che si estende rapidamente e coinvolge tutti, anche i parlamentari dei 5 Stelle, anche Beppe Grillo, che appare davvero provato. Subito dopo, a parlare ai giornalisti, è Alessandro Di Battista. Non ci sia nulla di più bello al mondo che il giorno del tuo funerale, mentre esce la bara, i cittadini per bene di questo paese, che sono tanti, cantino onestà. E molti si chiedono ora cosa accadrà del movimento. Noi lo abbiamo chiesto agli attivisti presenti. Noi abbiamo fatto, il movimento ha fatto delle scelte giuste, che sono stato fare il direttorio, poi c'è comunque Beppe Grillo, per cui non è come se fosse una sola persona, se succede qualcosa a questa persona magari va in crisi. La pensa così anche Umberto Bossi, venuto a dare l'ultimo saluto a Casaleggio. Se fosse capitato un anno fa, allora sarebbe stato molto più pericoloso. E dopo un anno difficile per loro, ma anche formativo, quindi secondo me sarà. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E adesso parliamo appunto di privacy, perché Microsoft fa causa al governo americano dopo la guerra mai conclusa, ancora non conclusa, quella tra Apple e FBI. Si apre quella tra Microsoft e il Dipartimento di Giustizia americano, si allarga quindi questo fronte che oppone i colossi dell'economia digitale all'amministrazione Obama, con al centro un tema preciso: quale equilibrio trovare tra il diritto alla privacy da una parte e gli imperativi della sicurezza nazionale e della lotta alla criminalità, al terrorismo dall'altra. Microsoft è scesa in campo oggi facendo causa al Dipartimento di Giustizia con un voluminoso dossier presentato dalla multinazionale, che fu fondata da Bill Gates, in cui denuncia la frequenza crescente con cui la polizia e le autorità giudiziarie esigono di mettere il naso, le mani sui nostri dati, email e altro, con in più la richiesta in posizione alla Microsoft di tenere all'oscuro il cliente quando i suoi dati personali vengono violati per passarli agli inquirenti. Che cosa ne pensate? È una decisione giusta questa di Microsoft, e in generale quella di voler salvaguardare da parte di questi colossi della tecnologia digitale eccetera, di conservare, di salvaguardare la privacy anche di fronte alla richiesta dei governi di fare dei controlli? 349-238-6666 il numero per i messaggi e per i WhatsApp, se no c'è la pagina Facebook di Effetto Notte. Torniamo a parlare come sempre di immigrazione. Mentre attesa per sabato la visita di Papa Francesco all'isola di Lesbo e ai suoi campi profughi, resta attesa la situazione anche al Brennero. Sul Brennero l'Austria non arretra e passa all'offensiva. Il ministro della difesa ipotizza una chiusura totale del confine in caso di emergenza. Se l'Italia continuasse a far passare i migranti e la Germania a respingerli, il Tirolo diventerebbe una sala d'attesa. Dunque la soluzione rimarrebbe quella di sigillare il confine. Ma c'è di più. Vienna, che già la scorsa settimana ha cominciato il dispiegamento dell'esercito al valico, vorrebbe poter effettuare i controlli non solo lungo l'autostrada per il tratto che le compete, ma anche sui treni in territorio italiano, per assicurarsi che non ci siano profughi in arrivo. Una linea dura, quella dell'Austria, fortemente criticata da Bruxelles, che ha annunciato sanzioni e l'apertura di una procedura di infrazione in caso di violazione delle regole di Schengen. Questa mattina il ministro degli esteri Gentiloni parla di brutto segnale per l'Europa. Se si tratta solo di parole, di gesti simbolici, penso che non ci saranno conseguenze sul terreno. Se invece ci saranno davvero muri, sarebbe molto grave. Il governo di Berlino vara invece un accordo definito storico per disciplinare l'integrazione dei migranti. Una legge per definire diritti e doveri dei profughi in Germania, paese che l'anno scorso ne ha accolti più di 1 milione. Alessandra Schepisi, Radio 24, Sole 24 Ore, Roma. E in serata si è appreso che l'Austria sta preparando una barriera anche al confine con l'Ungheria. Intanto a Bruxelles Khalid Zerkani, l'emiro di Molenbeek, del famigerato quartiere di Bruxelles dove sarebbe stato un vivaio di terroristi islamici, lui reclutatore di decine di giovani partiti per la Siria, compresi molti dei personaggi implicati negli attentati di Parigi e Bruxelles, è stato condannato a 15 anni. I giudici lo hanno riconosciuto a capo di una filiera terroristica. Intanto da Bruxelles arriva uno strumento evocato da molto tempo, invocato da molto tempo nella lotta al terrorismo. Si chiude con un voto a larghissima maggioranza il controverso iter del registro dei dati dei passeggeri aerei o PNR, determinante l'accelerazione imposta dagli ultimi attentati di Bruxelles dopo che Strasburgo aveva rallentato l'approvazione della normativa temendo i potenziali effetti negativi in materia di privacy per i cittadini, considerata l'imponente mole di dati personali che verranno schedati. Tuttavia il vertice straordinario dei ministri dell'interno e della giustizia comunitari, due giorni dopo gli attacchi nella capitale belga, ha forzato le ultime resistenze. Le compagnie aeree saranno obbligate a comunicare alle autorità i dati dei passeggeri per tutti i voli provenienti dai paesi terzi verso l'Unione e viceversa. Il voto dell'Europarlamento arriva dopo oltre 4 anni di lavoro. La riforma andrà a sostituire l'attuale direttiva che risale al 95. Il largamento generale sulla protezione dei dati sensibili, ha sottolineato l'eurodeputato tedesco Albrecht, fa sì che un livello elevato e uniforme di protezione dei dati in tutta l'Unione diventi realtà. Per Albrecht i cittadini potranno decidere quali informazioni personali vogliono condividere. Gli stati membri dovranno stabilire una propria unità di informazione sui passeggeri per raccogliere i dati PNR delle compagnie, dati che dovranno essere conservati per un periodo di 5 anni, ma dopo 6 mesi dal trasferimento saranno resi anonimi mediante la mascheratura di alcuni elementi. Soddisfazione da parte della Commissione europea, la direttiva torna ora sul tavolo dei ministri dell'interno per l'approvazione definitiva. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E a proposito di terrorismo, oggi è stato diffuso un video. Del gruppo integralista Boko Haram nella Nigeria, dove si vedono, vi ricordate, quelle 300 ragazze che erano state rapite 2 anni fa in Nigeria solo perché studiavano, e Boko Haram è contro l'istruzione occidentale, l'istruzione in genere, soprattutto per le ragazze. Ebbene, è stato diffuso questo video che dimostra che alcune di loro, e molte di loro, ci sono ancora vive. Ne ha parlato oggi Renzi e ne ha parlato anche la Presidente della Camera Boldrini, che ha lanciato questo hashtag, che già aveva fatto il giro del mondo, Bring Back Our Girls. Dice: il video dimostra che le ragazze, le 276 rapite da Boko Haram in Nigeria 2 anni fa, sono vive, impegniamoci per liberarle, per continuare quindi a tenere alta l'attenzione su questa vicenda. Adesso di nuovo in Italia, a Carrara, dove sono ancora in corso le ricerche di 2 operai di una cava sulle Alpi Apuane, 2 operai che risultano infatti dispersi dopo che nella cava Antonioli un costone si è staccato all'improvviso travolgendoli, facendoli precipitare nel vuoto per circa 30 metri, con loro anche una macchina escavatrice. Un terzo operaio era rimasto sospeso, per qualche tempo invece è stato tratto in salvo e trasportato al pronto soccorso con un elicottero, è in prognosi riservata ma non è in pericolo di vita. A quanto si sa sarebbero franate quasi 2000 tonnellate di marmo, un crollo terribile in seguito al quale diversi operai sono stati colti da malore, alcuni al punto tale da dover ricorrere alle cure mediche. In tutto i bacini delle cave delle Alpi Apuane sono stati sospesi i lavori. Domani sarà sciopero sul luogo dell'incidente, tra gli altri c'era il sindaco di Carrara Angelo Zubbani, l'ha raggiunto Roberta Pellegatta. Il programma prevede l'impiego delle unità cinofile per capire se sotto questa montagna di terra, detriti e sassi, ci sia ancora una speranza di trovare in vita. Una speranza che purtroppo pare minima, visto quello che è successo. Esatto, però diciamo qui siamo. Dopodiché, qualora gli esiti siano quelli non auspicati, inizieranno allora il movimento del materiale. C'è un'idea su quello che è successo, di come è potuto accadere? Ma guardi, non era un lavoro di estrazione di blocchi, era un lavoro di cosiddetto di bonifica, cioè di pulizia e paradossalmente di messa in sicurezza, è un lavoro che era in atto già da tempo, controllato, autorizzato, controllato, quindi sicuro. Stavano eseguendo ciò che era stato autorizzato, poi come la dinamica eccetera sia successa eccetera, questo ora poi dipenderà, finita questa fase, da parte degli organi competenti. Parliamo adesso di povertà, perché l'Italia è il paese europeo col numero più elevato di persone che vivono in gravi privazioni materiali, ovvero la definizione istituzionale di poveri, quindi è il paese col maggior numero di poveri in Europa, quanto emerge dai dati Eurostat relativi al 2015, che segnalano una discesa sensibile del numero di poveri in Europa, ma solo marginale in Italia. In Italia sono quasi 7 milioni, il doppio della Germania, 3 volte la Francia. C'è anche una notizia che riguarda il canone Rai, perché è stato bocciato il concetto di pagamento in bolletta, a sollevare pesanti dubbi al Consiglio di Stato, che parla di mancanza di un qualsiasi richiamo a una definizione di cosa debba intendersi per apparecchio televisivo, cosa che si chiedono anche, hanno chiesto molti ascoltatori e ascoltatrici, dal momento che sul mercato sono ormai disponibili molti device per la ricezione dei programmi, molti dispositivi. Dunque, testo da rivedere secondo il Consiglio di Stato. Non una bocciatura, ma un utile suggerimento e la replica del governo, e staremo a vedere come andrà a finire questa vicenda. Poi, per il cinema, nessun film italiano in gara per la Palma d'Oro a Cannes. Oggi è stata la conferenza stampa, capiremo perché questa grave mancanza. E poi, per chiudere, calcio e tecnologia, l'Italia è stata prescelta dall'IFAB e sarà tra le federazioni nazionali che sperimenteranno il VAR, cioè Video Assistance Referee, ovvero la tecnologia in campo. Il via del test è previsto per settembre. E a proposito di tecnologia e calcio, cosa ha deciso di fare il nuovo allenatore del Milan, Cristian Brocchi? Di utilizzare un drone che sorvola il campo durante l'allenamento. È una delle prime novità da lui introdotte. Veramente bizzarra questa cosa. A proposito di queste semi-invenzioni, anche di idee relative a invenzioni degli altri, c'è una notizia che arriva adesso: sono ben 35 discendenti viventi di Leonardo da Vinci. C'è in corso uno studio dell'albero genealogico e tra l'altro tra loro c'è anche il regista Franco Zeffirelli. Pensate. Direi che ci possiamo lasciare per aggiornare chi sta viaggiando. Volevo però intanto vedere alcuni dei vostri messaggi al 349-238-6666, così come sulla pagina Facebook di Effetto Notte. Apprezzo moltissimo questo messaggio di Gianni da Asti, che dice: starei a sentirti giorno e notte. Ascoltate giorno e notte Effetto Notte, c'è la pagina che potete consultare in qualsiasi momento. Poi Enrico, a proposito di privacy, che è la domanda che vi ho posto questa sera su, per esempio, la causa che Microsoft intende muovere al governo americano, dice: per la legalità in certi casi sarei disposto a privarmene della privacy, male non fare, paura non avere. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Sempre Roberta Giordano con voi, qui Effetto Notte. Mi raccomando, diffondete il verbo della presenza di Effetto Notte da ascoltare tutte le sere, anche amici, conoscenti, parenti, amori, eccetera. Non siate egoisti. E intanto, mentre scrivete i vostri messaggi dal 349-238-6666, la pagina Facebook di Effetto Notte, ne sto leggendo qualcuno prima di ricordarvi quali sono le notizie più importanti e cominciare a entrare nel cuore degli argomenti. La domanda questa sera è quella sulla causa che Microsoft ha deciso di muovere al governo americano, perché dice gli utenti, per esempio per le mail e per altri dispositivi, insomma, devono essere avvisati quando c'è un'intrusione anche delle forze dell'ordine, della polizia, eccetera, però lo devono sapere. Allora, Maurizio da Udine dice, insomma, siete un po' in ordine sparso questa sera. Maurizio da Udine è sul referendum, dice: a me risulta, dice signora Giordano, non mi chiamare signora che mi viene l'uveite, risulta che a differenza di quanto previsto per le elezioni politiche e amministrative, la partecipazione a un referendum non è un dovere ma solo un'opportunità, non solo ma anche che nel caso non venga raggiunto il quorum, le spese sostenute per organizzare la consultazione sono a carico dei promotori. Adesso quest'ultimo aspetto un po' mi sfugge, ma è chiaro che certamente la partecipazione è assolutamente libera, è un'opportunità, insomma, decide chi vuole andare a votare, chi non vuole andare a votare, chi vota sì, chi vota no, senza dubbio. Invece sul tema di questa sera c'è gli altri messaggi sulle trivelle, non li posso leggere perché siamo in par condicio. Senti, a Stefano da Bergamo dice: era più sicura la vecchia busta con francobollo, io la uso ancora. Adesso addirittura siamo un po' esagerati. E un altro che dice: io obbligherei chi fa muri a non superarli in uscita, vogliono isolarsi che lo siano. Ordine sparso state andando stasera, questo sul muro del Brennero. Adesso però parleremo tra pochissimo dei funerali di Casaleggio e soprattutto sul dopo, che ne sarà del Movimento 5 Stelle. Prima le notizie della giornata. Renzi torna sulla questione del referendum di domenica sulle trivelle, dice: è un'assoluta bufala che si voti sulle rinnovabili ed è legittimo astenersi. E poi intanto c'è il Consiglio di Stato che esprime dei dubbi sul canone RAI pagato in bolletta. Scontro sulla barriera del Brennero, l'Austria pronta a chiudere, Gentiloni dice un brutto segnale e l'Austria per tutta risposta decide anche di chiudere il confine con l'Ungheria. Il Movimento 5 Stelle oggi ha detto addio a Casaleggio, la folla gridava onestà, onestà in migliaia ai funerali, ne parleremo a breve. Torna la deflazione a marzo in Italia e poi cede un costone in una cava nelle Alpi Apuane, due operai sotto le rocce, sono ancora in corso le operazioni per la ricerca di questi operai. E il caso Regeni, Roma inoltre la nuova rogatoria in Egitto e poi nessun film italiano in gara per la Palma d'Oro a Cannes. Gian Roberto! Ecco, questo è il brindisi fatto oggi dai parlamentari 5 Stelle dopo il funerale di Gian Roberto Casaleggio, così come lui aveva voluto, funerale che si sono tenuti oggi a Milano, se avete scomparso a 61 anni dopo una lunga malattia. Naturalmente oggi in Santa Maria delle Grazie a Milano c'era Beppe Grillo, c'erano i componenti del direttorio Di Maio, Di Battista, Ruocco, Fico e Sibilia, un'ampia rappresentanza dei parlamentari pentastellati, compresi anche i candidati adesso alle amministrative, in particolare Virginia Raggi e Chiara Appendino. C'era Dario Fo, c'erano tanti attivisti e poi è arrivata anche una delegazione del PD con Fiano e Guerini, seppure siano stati fischiati dai militanti, e il feretro poi è stato accolto, come vi dicevo, da un coro di applausi e dal grido onestà, onestà. Sentiamolo. E poi naturalmente il saluto più commosso è quello del figlio Davide dall'altare, dice, chi condivideva il suo sogno lo prosegue sino alla fine senza mollare mai, e alcune delle sue parole sono state registrate evidentemente da qualcuno e poi messe sul sito di Affari Italiani. Vediamo se riusciamo a capire un po'. Il suo essere riservato, allergico ai riflettori, lo rendevano sconosciuto. Era ostinato. Dice praticamente mio padre lo conoscono in pochi perché era riservato, perché allergico ai riflettori, ma tenace, ostinato, e racconta, dice, un zio mi raccontava che da piccolo lui non faceva i capricci, per ottenere quello che voleva si sdraiava direttamente sui binari del tram, era un grande lavoratore, racconta Davide, nessun giorno era veramente di vacanza, per lui era un'audacia di vedere il futuro prima degli altri, anche quando gli altri negavano che davvero ci fosse. Ma voglio chiedere al professor Aldo Giannulli, che è docente di storia del mondo contemporaneo all'Università degli Studi di Milano, che ha conosciuto Gian Roberto Casaleggio anche perché ha elaborato per loro delle lezioni per elaborare una legge elettorale proposta dal Movimento 5 Stelle. Professor Giannulli, buonasera. Chi era buonasera. Veramente Casaleggio, il quale diceva dietro Gian Roberto Casaleggio c'è solo Gian Roberto Casaleggio? Dietro Gian Roberto Casaleggio c'è sempre stato solo Gian Roberto Casaleggio. Ci sono una serie di leggende che si sono costruite e che poi alla fine si sono sgretolate, che hanno lasciato questo alone di mistero, di personaggio enigmatico. Infatti. Niente di tutto questo. Roberto Casaleggio era soprattutto una persona molto timida. Come dice il figlio, un gran lavoratore, disturbato dall'idea dei riflettori, della folla. Io ricordo una cosa, ricordo che quando doveva parlare in pubblico, prima era sempre molto teso, lo dissimulava, però non era una cosa che faceva con Beppe Grillo, immediatamente spontaneo, eccetera. No, Roberto invece era sempre, per lui era una prova parlare in pubblico. Professore, ma quando lui diceva, sa che è stato definito guru, innovatore, genio creativo, sognatore, visionario, effettivamente elaborava idee e visioni, questo l'abbiamo visto, sicuramente ha introdotto un nuovo modo di fare politica in Italia, e poi una delle sue frasi celebri era per esempio: un'idea non è né di destra né di sinistra, è un'idea o buona o cattiva. Beh, spesso ci capitava di litigare su questa cosa, perché io gli dicevo: guarda che non tutte le idee buone io penso che siano di sinistra e non tutte le idee cattive di destra. Può benissimo esserci un'idea buona di sinistra e un'idea buona di destra, però se le metti insieme esce fuori una soluzione sbagliata, perché in qualche modo le idee devono avere una loro coerenza, devono costruire un sistema. Lui in questo però era, non lo interessava questo, lui era alla ricerca costante dell'idea nuova, della cosa innovativa, era poco attento alla coerenza del sistema, era molto più curioso che sistematico nell'affrontare i problemi di carattere politico. Giannulli, l'ultima cosa, il ricordo più forte che ha, più particolare di Casaleggio qual è? Beh, io ho lavorato con lui un paio d'anni, ci siamo visti tra le 50 e le 60 volte in questi due anni, nonché sentiti, scambiate mail, eccetera, e il ricordo maggiore che ho è in termini più umani che politici. nonostante la sua enorme riservatezza, poi ero diventato molto amico. La prima volta che lo vidi, e ho un ricordo forte di questo, con la sua espressione fissa, questo volto inespressivo, mi sentii sottesane. Dopo capii che a sentirsi sottesane era lui. E quindi in questo senso poi scattò questa intesa, per cui per esempio potevo permettermi anche di prenderlo un po' in giro, di scherzare, e spesso era quello che scioglieva la tensione di qualche dissenso, di qualche momento. Nel complesso ricordo una persona molto curiosa, onnivora, che leggeva qualsiasi cosa e che lavorava in continuazione. Grazie professor Aldo Giannulli per questo ricordo, grazie, buona serata. Ora invece interpello la professoressa Elisabetta Gualmini, vicepresidente della Regione Emilia-Romagna, politologa, tra i suoi libri anche Il Partito di Grillo, no professoressa, buonasera. Buonasera, buonasera a tutti. E che ne sarà adesso del movimento di Grillo? Quali sono quelle che lei prevede ripercussioni più fondate sul Movimento 5 Stelle? C'è chi parla, no? Ci sono due scuole di pensiero, chi parla di balcanizzazione perché ci sono quelli che spingono per la leadership, ma le seconde file sono un po' scalpitanti, e quelli che dicono no, ormai è un movimento maturo, può camminare tranquillamente sulle proprie gambe senza nessuna difficoltà. Dunque, sicuramente la perdita dolorosa di Casaleggio avrà delle ripercussioni importanti proprio nella storia e nell'evoluzione del Movimento 5 Stelle, perché bisogna proprio riconoscere che Casaleggio è stato il vero ideatore, l'ideologo, tra l'altro in una divisione del lavoro perfetta con Grillo, perché Grillo era l'istrione, l'animale da palcoscenico, e invece Casaleggio quello che formulava le idee, quindi un connubio che davvero funzionava benissimo. Un ottimo incastro, facile, insomma. Esatto, non sarà facile replicare. E poi l'invenzione straordinaria che insomma avrà davvero una rilevanza in tutta la storia dei partiti italiani, della rete, ma intesa non tanto come comunicazione spicciola coi cittadini, ma come modello organizzativo anche del partito, cioè il fatto che i cittadini si conoscessero prima nella rete, poi nei meet-up, e al posto delle sezioni e dei circoli avessero tutto un altro modo di discutere di temi rilevanti. Ma io penso che innanzitutto ci vorrà un po' di tempo, penso che a breve succederà poco, cioè il movimento continuerà a fare questi passi verso l'istituzionalizzazione, la strutturazione. Penso che questo direttorio, cioè la appunto formulazione di quadri intermedi, verrà consolidata. Penso che sia presto per ora parlare della nomina di un leader interno, si è parlato di Di Maio, penso che fino alle prossime elezioni politiche di questo non si parlerà, e ritengo anche che in questa fase di transizione verso una maggiore strutturazione Grillo tornerà ad avere un ruolo centrale, cioè non è pensabile ancora in questa fase che Grillo abbandoni la scena o faccia il famoso passo di lato, deve rimanere, secondo me. Lo vedremo per la campagna delle amministrative, e poi via via i quadri intermedi, quindi le diverse leadership che sono nate, probabilmente si riorganizzeranno e manderanno avanti, forse anche con i propri piedi, questo progetto. Un'ultima domanda, professoressa Gualmini. È vero che quindi, come diceva già Casaleggio in uno dei suoi slogan, dicevo prima, non esiste un'idea di destra o di sinistra, esiste un'idea buona o cattiva, quindi mantiene un'idea di fondo trasversale, il Movimento 5 Stelle, sono trasversali? Assolutamente, questa è una delle carte vincenti di questo Movimento 5 Stelle, e tra l'altro Casaleggio, oltre a ritenere questo, era il vero custode dell'ortodossia, cioè delle regole di base del movimento che non dovevano mai essere messe in discussione, quindi le espulsioni o le certificazioni delle liste eccetera venivano tutte da lui, era lui che vietava assolutamente di andare in TV perché percepita come un mezzo di comunicazione vecchio e superato, e il fatto che lui dica non esiste più la destra e la sinistra ma esistono cose che funzionano, cioè con questo approccio al problem solving, e cose che non funzionano è stata una piccola rivoluzione nel pensiero politico contemporaneo, cioè un'idea pragmatica che molto spesso esercita molto fascino sui cittadini, magari cittadini stanchi invece di una politica o di destra o di sinistra che non aveva mai concluso granché. E questo lui lo aveva colto. Grazie, grazie professoressa Elisabetta Gualmini. Grazie a voi. Buona serata. Ora ci prendiamo una breve pausa di ricreazione. Intanto Luca scrive, vi ricordo che per intervenire qui in diretta con le vostre riflessioni c'è la pagina Facebook di Effetto Notte e il numero 349-238-6666 per i messaggi e per i WhatsApp. Scrive Luca: le regole sulla privacy ci sono, ma i poteri forti, le magistrature se ne fregano, bisogna imparare a esibirsi come meno sui social, dice Luca, a proposito di questa decisione della Microsoft, che vi dicevo che vuole fa causa al governo degli Stati Uniti, perché dice gli utenti devono essere avvisati quando il governo si intromette, mette il naso anche nelle email o in altro. A tra poco. Radio 24 sulla rotta dei migranti, con Papa Francesco alle porte d'Europa. L'isola di Lesbo è il capolinea meridionale della rotta balcanica. Migliaia di persone hanno sfidato il mare in condizioni di precarietà per raggiungerla. Papa Francesco, la scelta per rilanciare il suo appello alla solidarietà e all'accoglienza. Radio 24, ancora una volta sulla rotta dei migranti, vi accompagna in questo storico viaggio. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Tra poco ve le ricordo le più importanti. Roberta Giordano sempre con voi. I vostri messaggi sulla pagina Facebook di Effetto Notte e al numero 349-238-6666 a proposito della decisione di Microsoft. Questo è il tema che vi sottoponevo questa sera per i vostri messaggi, che ha deciso di fare causa al governo americano perché dice si infila il naso nelle mail e negli altri metodi di comunicazione degli utenti e questi non vengono avvisati. Secondo voi qual è? Ha ragione Microsoft a prendere questa decisione, a fare questa scelta, e qual è il giusto equilibrio tra privacy e sicurezza, che è sempre difficile da trovare? Luciano scrive: beh, quando gli utenti sono assassini, delinquenti eccetera, credo che sia giusto l'intervento del governo per garantire la sicurezza di altre persone se c'è un pericolo imminente, anche se non sempre lo si sa da subito. Luciano poi dice: comunque sono favorevole alle telecamere, io le metterei ad ogni angolo, nelle scuole, ospedali, parecchi omicidi potrebbero essere risolti se vi fossero più telecamere. Cristiano: non può essere sempre solo Grande Fratello, che almeno qualche ramo di libertà a cui aggrapparsi continui a tenere, a garantire un respiro di vita. Bill ha ragione, si riferisce a Bill Gates, anche se adesso è un po' esterno, diciamo, al colosso che ha creato. Mimmo: approvo in toto, nessuno deve violare la privacy tranne che per motivi gravi. E adesso vi ricordo le notizie e poi il prossimo tema. Il referendum sulle trivelle, Renzi commenta: è una bufala dire che si vota sulle rinnovabili, astenersi è legittimo. I funerali di Casaleggio, ne abbiamo appena parlato, anche della sua figura, il Movimento 5 Stelle in lutto, oggi al grido ai suoi funerali di onestà, onestà. Microsoft fa causa al governo americano, gli utenti, dice la multinazionale, devono sapere se vengono spiate le loro mail. Al Piapuane frana un costone, due operai intrappolati sotto le rocce. Immigrazione, il Papa atteso a Lesbo, ne parleremo tra poco. Povertà, secondo i dati Eurostat, l'Italia è il paese europeo con più poveri, quasi 7 milioni, il doppio della Germania e tre volte la Francia, il paese dell'Unione Europea. Canone Rai, dubbio del Consiglio di Stato sul pagamento in bolletta, va rivisto, dice il Consiglio di Stato. Cinema, Cannes, nessun film italiano in gara per la Palma d'Oro. Radio 24 sulla rotta dei migranti, con Papa Francesco alle porte d'Europa. E ci colleghiamo con la nostra Raffaella Calandra, che è volata a Lesbo in Grecia, l'isola greca che è diventata appunto simbolo del flusso dei migranti della rotta balcanica, che dovrebbe essere un approdo provvisorio, ma insomma ci sono campi di profughi e bisogna capire anche come, da che parte riusciranno a muoversi. Sabato, come avete sentito, da qualche tempo lo ha annunciato Papa Francesco, sarà lì per portare la sua solidarietà ai profughi. E il suo slogan è un po' stato per questo viaggio che intende fare: l'Europa non perda la sua anima. Allora Raffaella, ciao Raffaella, ti chiedo: ciao, qual è l'anima di Lesbo, da isola esclusivamente turistica come tutte le altre isole greche, che adesso è diventata questo simbolo di approdo provvisorio di centinaia di migranti? Che anima hai trovato? C'è una doppia anima sicuramente a Lesbo, c'è quella del centro, c'è quella del porto dove mi trovo in questi istanti, dove al di là delle grosse navi della polizia di frontiera e dei confini e dei quelle inviate da Frontex, in realtà sembra esserci quasi una vita normale, con il tutto esaurito in tutti gli alberghi e in ogni sistemazione possibile. Tanto è vero che è stato anche molto complesso trovare un posto dove restare, questo proprio per il richiamo che la vita di Papa Francesco e la portata di questa visita ha su tutto il mondo. E poi c'è l'altra anima, quella sparsa nei 3 campi profughi dell'isola, ognuno dei quali sono stata anche io oggi, che invece è un'anima che è soprattutto che quella che principalmente ora ripone tutte le speranze e tutte le attese in questa visita, soprattutto nella speranza che il messaggio che Papa Francesco sabato da qui, dal porto di Lesbo, manderà a tutta l'Europa possa in qualche modo portare ad una inversione di rotta rispetto a quel patto tra Bruxelles e Ankara, con il via ai rimpatri in Turchia di alcuni migranti, che in qualche modo terrorizza le tantissime persone che in questi mesi sono qui arrivate. Il Papa sarà qui e pranzerà, incontrerà anche alcuni di questi profughi all'interno di questo campo Moira, che è stato chiuso dopo l'accordo del 20 marzo, che è diventato una sorta di centro di detenzione. Qui migliaia di persone vivono accampate anche in condizioni abbastanza precarie, ci sono tantissimi bambini che è possibile intravedere al di là della recensione, perché appunto in questo campo non è possibile né entrare né uscire. Oggi invece poi sono stata anche in un altro campo, il Cora Tepe, quello dove è possibile quantomeno entrare, anche se di fatto i profughi non hanno la possibilità di circolare nel resto dell'isola, e qui comunque ho avvertito e ho registrato, parlando con le tantissime persone, questa attesa di tantissimi, tutti, cominciare dai tantissimi musulmani, depongono nel messaggio di Papa Francesco, per cui l'attesa è veramente alta. Lui sarà ricevuto dal premier Tsipras all'aeroporto, poi insieme alla patriarca di Costantinopoli e al vescovo della Grecia incontrerà appunto questi profughi nel campo Moira, e poi deporranno delle corone nel mare a ricordo dei tantissimi che sono morti nell'attraversare l'Egeo, in questo punto dalla Turchia alla Grecia, una Turchia che è così visibile a occhio nudo da sembrare appunto così facile questa traversata, ma invece, come sappiamo, purtroppo in tantissimi sono morti. Roberta. Grazie Raffaella Calandra, poi ci colleghiamo ancora con Raffaella domani con l'isola di Lesbo. Vedo diversi vostri messaggi sulle trivelle, sul referendum, non li leggo perché dovrei trovare una par condicio eccezionale leggendo tanti messaggi da una parte e dall'altra, quindi che siate per l'astensione, contro l'astensione, per il sì, per il no, mi dispiace, diciamo l'informazione paritaria l'ho già fatta nei giorni scorsi con 2 ospiti contrapposti su questo tema, quindi poi fate quello che ritenete opportuno domenica su questo tema. Ancora i vostri messaggi invece su altre questioni, dice per esempio questo ascoltatore: da Grillino voglio rendere omaggio a Bossi, al quale ho stretto la mano complimentandomi per le belle parole, perché oggi era al funerale di Casaleggio e lo ha elogiato anche nei giorni scorsi. 349-238-6666, pagina Facebook ed Effetto Notte. C'era un messaggio di Omero molto bello, vediamo se lo ritrovo. Che era anche questo uno slogan, ecco, eccezionale, Vali 100 TG, dice viva la radio e chi ascolta alla faccia della superficialità. Omero, diciamo, epico nel nome e anche nel concetto che approvo. Ci sentiamo un momento. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto Notte, siete al posto giusto, nel momento giusto, anche con la giusta conduttrice Roberta Giordano con voi. Vi ricordo a breve le notizie più importanti e poi continuo anche a leggere i vostri messaggi che arrivano anche alla pagina Facebook di Effetto Notte. Mimmo dice, a proposito della scelta di Microsoft di fare causa al governo americano per intrusione, per non rispetto della privacy, approvo in toto, dice Mimmo, nessuno deve violare la privacy tranne che per motivi gravi. Andrea, chi rinuncia alla propria libertà per la sicurezza non avrà né lo merita né l'una né l'altra, citando Benjamin Franklin. Radio Zone. Incontro con gli europarlamentari. Nome: Gianluca. Cognome: Buon anno, come gli auguri, tutto attaccato. Età: 50, il 15 di maggio. Nato a Borgosesia. Eletto in Nord-Ovest, quindi Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta e Lombardia. Con quanti voti? Preso circa 27.000 voti. Partito politico: Lega Nord. Gruppo politico: Nazione della Libertà. Segni particolari: bellissimo. Quante lingue parla? 4. Quali? L'italiano, il dialetto, francese e inglese. Competenze europee in 10 parole. Impegno: portare la realtà di un sindaco in un contesto dove si vive su Marte. Benvenuto nella Youzone di Radio 24 da Silvia Bernardi. Frontiere chiuse al Brennero, sì o no? Secondo me sì, perché l'Austria pone un problema vero e quest'estate lo capiremo tutti. Polizia europea, PNR, codice di controllo dei passeggeri in transito, procura europea. Cosa funziona e cosa no contro il terrorismo? In questo momento funziona veramente poco, quasi niente. L'Europa è un gigante mollissimo, non ci sono controlli veri e propri. Procura europea, già non riusciamo a farle funzionare le procure che esistono. Non vorrei solo che facessero un nuovo carrozzone con nuovi dirigenti, con nuovi stipendi, con nuove cose, con risultato praticamente a zero. L'Europa è protagonista solo quando si parla di economia, immigrazione, terrorismo e scandali politici. Tutto il resto dove rimane? Ma l'Europa di per sé esiste solo nella geografia. Faccio solo questo esempio. Bruxelles e Strasburgo, 3 settimane a Bruxelles e 1 a Strasburgo. Spostano ogni mese faldoni, dipendenti, dirigenti, tutto da un posto all'altro con tutta una serie di tir. Perché cosa? Per spendere 250 milioni all'anno da una parte all'altra, risultato zero. Questa è Europa. Come spiega l'Europa a suo figlio? Come un gran bazar. La sua battaglia vinta? Essere stato eletto. Quella persa? Che quando parlo mi guardano come se fossi un marziano, quando i marziani sono loro. Un giorno ho chiesto a Juncker, guardandolo in faccia, lei sa quanto costa un chilo di pane, un litro di benzina, un litro di latte? Questo mi guardava come fossi un matto. Il matto è lui come tutti gli altri. Politica e show, dove finisce l'uno e inizia l'altro? Ma non c'è più molta distinzione. Sono cambiati i tempi, sono cambiate le situazioni. Per quanto mi riguarda, io quando faccio show lo faccio sempre però mirato. Cioè, faccio uno show ma lo faccio perché c'è un problema vero e serio e cerco in qualche maniera di dare una sottolineatura. Quindi più show o più politica? 50-50. Tra 10 anni come si vede? Ancora più piccolo di quello che sono, perché sarò un po' invecchiato. È ospite affezionato della Zanzara. Cosa dice a Cruciani e a Parenzo? A Cruciani dico: togli Parenzo, chiama me, vedrai che faremo più audience. E poi rispetto a Parenzo, io sono uno scienziato e lui un microbo. Youzone, incontro con gli europarlamentari. In collaborazione con Euronet Plus. Parliamo di cinema adesso, perché oggi c'è stata la conferenza stampa ufficiale a Parigi della 69esima edizione del Festival Cinematografico di Cannes, che sarà in programma dall'11 al 22 maggio. C'è una grave mancanza, però, tra i 20 film selezionati per la corsa alla Palma d'Oro non ci sono, Marta Cagnola, film italiani. Neanche un film italiano. Si sperava in Andò, si sperava in Bell'Occhio, non ci saranno. Thierry Frémaux, che è il delegato generale del festival, ha detto: quest'anno è andata così. Siete comunque nel nostro cuore, ma quest'anno è andata così. Nessun film lo ha convinto per la selezione ufficiale. Mi pare che sia la prima volta dal 2007 che non c'è un film in corsa italiano. Ebbene sì. Tra l'altro, paradossalmente, in un periodo in cui noi parliamo tanto di rinascita del cinema italiano, nessun film, perlomeno nella selezione del concorso principale. Nella sezione Un certain regard ci sarà Pericle il nero di Stefano Mordini. Per la prossima settimana aspettiamo le sezioni parallele, cioè la quinzaine e la settimana della critica. Ci sono delle speranze, speriamo in Paolo Virzì e in Claudio Giovannesi per la quinzaine. Alla settimana della critica probabilmente Alessandro Comodin. Certo è che insomma si sperava di tifare per una Palma d'Oro, quest'anno no, niente. È andata così. Questo giusto per gli italiani. Vabbè, cerchiamo di essere internazionali anche noi, di avere frontiere ampie. E sentivamo prima una musica evocativa di Almodovar, no? Perché c'è lui, poi ci sono c'è già scatola chiusa, Spielberg. Sì, già scatola chiusa, Almodovar favorito. Non so in base a che cosa, se già qualcuno ha visto questi film, però già si dice Pedro Almodovar con Julietta favorito. Spielberg fuori concorso con GGG, come fuori concorso sarà Jodie Foster con Money Monster. Invece Almodovar avrà contro dei nomi enormi come Ken Loach, Xavier Dolan, i fratelli Dardenne, Jim Jarmusch, Sean Penn, Paul Verhoeven, Christian Mungiu. Insomma, ci sono nomi veramente pesanti nella selezione. Certo, nessun italiano ovviamente. Sì, poi sentivo che naturalmente, visto quello che è successo recentemente, sarà un festival particolarmente blindato questo, no? Con sì, ingenti misure di sicurezza. Sì, allora le misure di sicurezza sono in generale molto forti, purtroppo dagli attentati di Parigi, però oggi appunto in conferenza stampa è stato chiesto, è stato annunciato, ci saranno misure di sicurezza molto forti e ovviamente attorno ai luoghi del festival, il Palais, ma non solo, Cannes sarà particolarmente controllata dalle forze antiterrorismo, purtroppo. Ci sarà comunque modo di divertirsi, non c'è, anche con film italiani mancanti, ma c'è una buona probabilità che Certain Regard, la sezione in cui è candidato questo film italiano, possa essere anche lui un favorito, secondo te? Su questo ancora non ti so, io non ho ancora visto il film, non ci sono ancora favoriti annunciati, nessuno ancora si è sbilanciato su questo, però certo, insomma, abbiamo perlomeno qualcuno su cui puntare, fare il tifo. Dai. Grazie Marta Cagnola. A presto. Ciao Marta. Prima di lasciarci, sempre su Microsoft, dice questo ascoltatore, Ivan, se non sbaglio, e lui è solo una mossa di marketing per non lasciare ad Apple il ruolo di paladino della privacy, quello di fare causa al governo americano. Comunque sia, noi ci risentiamo tra poco alle 22.